Beh, tempi tecnici che sono andati a buon fine, insomma, quindi dopo un po' di sigla, Miles Davis con I Cool Bright Book, per il voltiamo pagina, come vi ho annunciato in precedenza, Silvia Albertazzi momentaneamente in diretta telefonica, aspettando al più presto la diretta, do il buongiorno a Silvia intanto, ben ritrovata, buongiorno, come stai? Ma oggi sto meglio, dai, rispetto a ieri quando ti ho sentita che ero veramente quasi in coma, sto bene. Addirittura, quindi dai, una buona ripresa ovviamente che ti augurano anche le ascoltatrici, gli ascoltatori del Voltiamo Pagina e del Breakfast Club. Ringrazio uno dei campioni del Voltiamo Pagina, i Magic Johnson e Larry Bird, cioè Dino e Andrea, che scrivono suoni e colori si appigliano magicamente con la colonna sonora. Grazie Dino, e intanto vediamo anche Andrea, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. Non hai ancora detto niente del libro misterioso vinto a fine settembre, l'hai vinto tu Andrea, comunque adesso non ricordo la vincitrice o il vincitore, che se all'ascolto invito a mandare piccolissima recensione per quanto riguarda questa edizione straordinaria messa in palio da Silvia. Allora, dopo dimmi. Scusami, ma prego. Forse non vorrei che volessi dire che non abbiamo ancora consegnato il libro misterioso. No, io l'ho portato. L'ho portato ufficialmente. Io ne ho un altro in casa che mi sono sempre dimenticata di riportare. Quindi ma c'è brava. Qualcuno c'è qualcuno arriverà. Che l'ha vinto e che lo sta setando e che molto gentilmente non ce lo fa presente. Okay, però con gran delicatezza. No, ma noi siamo di parola, quindi sì, ce l'ho, bello, chiuso, sigillato. La prossima volta lo porto. In forma anonima. È vero che ne hai messi due in palio con questa modalità. Tra l'altro, allora noi iniziamo. Non hai mancato la playlist anche per oggi, l'hai compilata, mi hai dato comunicazione, mi sono procurato ovviamente i brani con il lavoro che vai a presentare. Io non ti ho detto niente, Silvia, ma ricordi le tue vacanze lunghe per quanto riguarda la tua trasferta vacanza in Canada? Ecco, certo, quel libro lì l'ho presentato già io nelle scorse edizioni. Non ti devi assolutamente dispiacere, anche perché un bel confronto ci sarà, in quanto a me ad esempio è piaciuto tantissimo. Oggi è uno dei pochi casi in cui ho voluto sapere in anticipo, non ti so dire perché ti ho chiesto ma cosa presenti, però è andata così. No, me l'hai chiesto perché volevi la copertina. Volevo fare la copertina per l'immagine che mettiamo con podcast in seguito. Allora così dico, dai, mettiamoci avanti coi lavori. Mi puoi dire in edizione anche questa straordinaria quale sarà il libro? Quando l'ho visto ho detto oddio, l'ho già portato, ma ciò non toglie ovviamente che anche un secondo ci mancherebbe parere e quanto mai ben gradito. Il lavoro è di Fazzi, il lavoro a me è piaciuto, non conoscevo l'autore, a me è piaciuto tantissimo, a te un pochettino meno. Intanto di chi si tratta? Si tratta di l'autore si chiama J.F. Powers, il libro Morte d'Arban ed è edito da Fazzi, appunto. Tra l'altro io pensavo fosse un libro che usciva adesso, perché a me l'hanno mandato dopo l'estate, quindi non avrei mai immaginato che tu ne avessi parlato in luglio, perché io l'ho avuto, a me è arrivato intorno a settembre più o meno, vabbè, comunque non importa. È la storia di un sacerdote, per la precisione un frate, che appartiene a un ordine inesistente, l'ordine dei Clementini. Che non sono mandarini o agrumi, no. Ecco. No. No, tra l'altro nel libro appaiono anche l'ordine dei Dolomiti, che non sono montagne. non sono le Alpi, no. E così via. Frate cattolico, ovviamente, e siamo negli Stati Uniti, quindi una minoranza. E noi assistiamo, per la bellezza di 350-360 pagine, alla sua quotidianità. Una quotidianità però che non è quella che ci aspetteremmo noi da cattolici, esatto, europei, cioè andare nelle parrocchie, fare missione, occuparsi dei bambini, dei poveri, eccetera. No. Ma è principalmente lui è un esperto, un bravo di retorica, è un bravo parlatore, quindi viene chiamato a fare prediche nelle varie chiese durante la messa, e solo in una situazione si ritrova per un certo periodo di tempo a sostituire un parroco nella parrocchia di Santa Monica. Santa Monica, che anche qui non è la città della California, ma è una parrocchia che si chiama Santa Monica. Ora, questo personaggio è un uomo sulla cinquantina, molto ben portante, che non disdegna direi anche il lusso, che non disdegna le cose materiali, diciamo, ma non è un ipocrita, cioè non è il ritratto di un sepolcro imbiancato, è semplicemente un uomo che concilia abbastanza bene la sua fede di cui sappiamo pochissimo. Questa è una cosa che mi ha colpito nel libro, cioè non è, malgrado si parli di è tutto incentrato in questo mondo di preti e di frati, non è un libro che faccia della propaganda spirituale, ma neanche che abbia un alone spirituale. E non dà neanche lezioni di morale, aggiungo. No, ecco, bravo, non dà neanche lezioni di morale. E questo signore riesce a conciliare la sua fede con questo desiderio, appunto, quando può, di viaggiare in prima classe, di mangiare nei migliori ristoranti, belle eccetera. Automobili, frequentare belle automobili, di golf, insomma, esattamente. Addirittura a un certo punto riuscirà a far costruire un campo da golf accanto al suo convento. Sai che a me un po' ha fatto anche sorridere, è stato un libro dove più volte ho sorriso, ecco. Ti ho detto, è un libro che mi ha un po' delusa, cioè non mi ha entusiasmata, diciamo, proprio perché ho letto come si fa, io non sapevo nulla neanche certo. Io dell'autore, ho letto il risvolto di la quadra di copertina, ed ci sono delle affermazioni entusiastiche da parte anche di altri colleghi scrittori importanti che dicono: ah, che bello, un libro molto comico, esilarante, e no, tutti battono su questo fatto che sia così comico. Ora, io non ho mai riso, qualche volta, come dici tu, ho fatto un sorrisino, però non l'ho trovato affatto comico, mentre questo, e ho per curiosità ho fatto anche un po' di ricerca online, questo viene contrabbandato, diciamo, per libro comico, per un autore comico. E ecco, allora ci sono due cose che secondo me un po' spiegano questo fatto che sia spacciato per un autore comico, e un po' mi fanno anche capire perché io personalmente non l'ho probabilmente apprezzato fino in fondo, perché è un libro profondamente americano, secondo me, e legato anche al suo tempo, se vogliamo. Allora, la prima cosa la prima cosa che lascia perplessi, se nessuno te la spiega, però vedo che a te è piaciuto anche senza saperlo. E ho la chiave di comprensione anche di questo, dai pure. È il titolo. Ah, beh, il titolo, sì, il titolo. Allora, no, bocciato. Morte d'Arthur, Darbal, chiaramente è un titolo che è una parodia del titolo del più famoso poema epico anglo-normanno, cioè La morte d'Arthur. Che è il poema dove si raccontano le gesta dei Cavalieri della Tavola Rotonda di Re Artù. Ora, La morte d'Arthur si chiama proprio così in inglese, morte, non death, perché è scritta in anglo-normanno e quindi morte, si diceva morte. Chiaramente in inglese il libro di Powers si intitola Morte d'Arban, esattamente come lo dico. Non è una traduzione da death, non so se mi spiego. Certo. Quindi c'è proprio questa volontà di prendere in giro la grande epica, di tradurre nel mondo della quotidianità più assoluta, se vogliamo, quella che è appunto sono gesta dei grandi paladini e via di questo passo. Quindi, il mito, certo. Il mito, ad Arthur, cioè Re Artù, si sostituisce Arban, che è il prete di cui si parla, e il titolo appunto Morte d'Arthur rifà fa il verso alla morte d'Arthur di Io non ci avevo pensato a questo, ovviamente. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente a me deformazione professionale. E però credo che se uno lo sa, forse si diverte un po' di più. Io no. No, certo. Però senza dubbio è una cosa chiaramente che che l'autore ha voluto, assolutamente. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il tutto, la storia di questo sacerdote, un frate cattolico, è vista da un autore che è sì cattolico anche lui e che, a quanto mi dice Wikipedia, ha sempre scritto di preti e di frati, ma non essendo lui un religioso, ecco, però è vista con l'occhio di uno che sta in America, di uno che sta in un mondo anglosassone in cui il cattolicesimo, con tutti i suoi riti e con tutte le sue manifestazioni liturgiche, è visto come qualcosa di esotico. E in effetti, se uno legge quel libro, si rende conto che siamo negli anni 50, quindi c'è ancora la messa in latino, c'è tutta una serie di, appunto, di rituali, di forme. Che chiaramente il protestante, colui che appartiene a un'altra religione, vede come così dei riti un po', appunto, esotici. Esotici, sì. Infatti. E mentre per noi sono abbastanza ovvi. Conseguentemente, quello che può far sorridere o ridere anche l'americano, per noi è assolutamente normale o è quasi. È normalità, sì. Ultima cosa che mi ha lasciata perplessa, ma che può essere anche invece interessante da un punto di vista, vogliamo dire, antropologico, è il fatto che per me il libro è profondamente radicato nel suo tempo. Cioè è un libro che si svolge nei tardi anni 50, il libro per la prima volta è uscito nel 1956, Ed ci fa vedere l'America di quel tempo, i famosi tranquilized 50s, sono stati definiti, cioè gli anni 50 tranquilli nel senso di tranquillizzati. Tranquillizzati, sì, scusa, certo. Sì, quindi anche con medicinali ad hoc. Quindi questo mondo che noi abbiamo conosciuto nei film, questo mondo di casette, villette a schiere, di signore con la permanente che stanno in casa a usare gli ultimi elettrodomestici mentre i mariti vanno al lavoro la mattina e gli fanno ciao ciao con la manina, di Happy Days, è un mondo che hanno rimesso molto in... È stato un periodo verso a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 in cui c'è stato un ritorno anche al cinema di film ambientati in questi anni 50, una sorta quasi di nostalgia ironica. Ecco, qui lo vediamo molto bene. Io, mentre vedevo questo libro, mi immaginavo un film con protagonista Gregory Peck, tanto per dirti. Certo. E così mi funzionava. Se dovevo invece leggerlo con l'occhio dell'oggi, ci trovavo così, mi veniva un po' da sorridere, perché ci trovavo delle situazioni che credo oggi non sarebbero più possibili, sì. O non in quel modo. Ben contento comunque di avertelo fatto presentare, perché mi hai dato diverse chiavi di comprensione. Pensa che io per tutto il tempo ho pensato, ma da questo libro si può fare una sitcom degli anni 70 ambientata però negli anni 50. Quindi è veramente, il pensiero va a corrispondere con il tuo, perché seppur in format diversi mi ha dato le stesse immagini. Ecco, e a me sì, questa sensazione mi è risultata gradevole. Ecco. Sì, io questo lo vedevo più che con una sitcom, lo vedevo proprio come un film di quelli che sono usciti anche relativamente recentemente, anche negli anni 2000, c'è stata tutta una moda di film ambientati negli anni 50 proprio in America. Adesso me ne viene uno in mente a caso, ma Brivido Caldo, però ce ne sono degli altri molto più molto più significativi forse, ambientati appunto in questi anni 50, ricostruiti sì, alla lettera, con un'attenzione quasi monomaniacale ai costumi, ai vestiti, alle macchine, all'arredamento. E ecco, questo, e poi non lo so perché per via del modo di fare, di essere del protagonista, mi veniva in mente Il buio oltre la siepe con Gregory Peck, che non c'entra niente. No, non c'entra niente come situazione, non c'entra niente. Apro una parentesi, se vogliamo, qui non c'è una sola persona di colore, non c'è, è un'America tutta bianca, però cioè, il tipo di personaggio, che l'uomo in grigio che rappresenta Gregory Peck, bello, onesto, eccetera, però anche un po' noiosetto tutto sommato, non lo so. Beh, il passaggio in cui trovano questa fonte miracolosa, almeno così dicono, lui viene consultato e dice: ma io ho scoperto però che un'altra congregazione vende prosciutti e stanno facendo, sì, quello secondo me è stato geniale. Ecco. Ho scoperto che vendono prosciutti piuttosto. Una cosa intelligente di questo libro, una cosa particolare che ti colpisce, dicevamo prima, non è un libro che ti fa la morale, non parla di religione, non parla di... è che ti mostra questi preti così come nel loro lavoro, non è neanche una missione quello che fanno, è proprio un lavoro. Sì. Il protagonista Urban, in ultima analisi, è un buon conferenziere e, se vogliamo, è un piazzista della religione. Certo, perché uno dei suoi scopi è quello di portare quanta più gente possibile a messa la domenica. Sì, ma lui viene trasferito, come hai citato. Ah, sì, certo. Per lui non è un problema. Lui ribadisce lo stesso comportamento. Non è che la prende come una cosa. Lui resta quello che è. Anche lui resta quello che è. Ci resta molto male. Sì. Perché poi viene trasferito in una parrocchia un po' dispersa, ecco. Nel mezzo del nulla, nel Minnesota. Nel Polesine degli Stati Uniti d'America. Sì, non lo so, perché il Polesine è bello. È vero. Non mi risulta che il Minnesota sia particolarmente affascinante. Sì, in effetti. E soprattutto nel Minnesota cadono dei metri di neve durante l'inverno, è uno di quei posti caldissimi d'estate e sì, freddissimi, gelidi d'inverno. E niente, lui viene trasferito in questo paese nel mezzo del nulla del Minnesota, il che è tutto dire, e dove per di più si trova a essere sottoposto, lui che ha una serie, ha un curriculum di tutto rispetto ed è riconosciuto come il migliore dei predicatori clementini, si trova sottoposto a una specie di tapiro, non so come dire, a un personaggio assolutamente banale, che ha paura grigio della sua ombra, sì, grigio, che ha paura della sua ombra, e che chiaramente però, come tutte le persone mediocri, avendo un minimo di potere, lo vuole sfrutta, assolutamente lo vuole esercitare. Certo, certo. Io l'ho promosso, ti dico, anche con caldamente, ecco. Sarà... Non è che lo boccio, assolutamente, perché se lo bocciavo non lo presentavo. Non lo portavo. Diciamo che non... mi aspettavo di più, avendo letto questi strilli entusiastici sulla quarta di copertina, mi aspettavo che facesse ridere, insomma, questo è il punto. Era spazzato per un romanzo comico. Ma è una metrica di comicità diversa, secondo me, anche in determinate scritture. Sì, poi, diciamo una cosa. È un aspetto diverso nel far sorridere. Anche questa, secondo me, è una comicità per americani. Sì. Non so come dire, gli americani non hanno il nostro senso di humor. No, ecco. No, assolutamente, assolutamente. Tu hai portato anche una playlist playlist che io ho procurato, ho portato una semi-playlist. Una semi-playlist, sì, dai, insomma, sei playlist da remoto. Iniziamo allora con il primo brano, è quell'allegrone di Nick Cave. Beh, ho preso due, no, semplicemente visto che parlavo di preti, ho preso due preghiere. Ah, perfetto, non ci ho mica pensato a questo. Sì, dico, chissà sì, come mi rivolge poi l'attinenza playlist con la lettura. Semplicemente proposta. Sono due preghiere. Allora, noi lanciamo il brano di Nick Cave and the Bad Seeds in My Arms. Torniamo tra poco perché il libro è in palio, se non ho capito male. Sì, sì, sì, certo, certo. A tra poco allora. Even an interventionist God. But I know, darling, that you do. If I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Into my arms. But I believe in love. Succede in Minnesota, Polesine Minnesota 10-0, arbitro Silvia Albertazzi, grazie per questo risultato più che calcistico, tennistico si può dire, portato da Sergio Fanti, che confermo da tifoso però. Aggiungo che ho voluto la presentazione, seppur doppia si può dire, a me è piaciuto tanto, ho trovato poi facendo conversazione in diretta con Silvia che con l'aspetto di post-adolescenza verso i 18-20 anni ho avuto grande frequentazione con la cultura statunitense, questo per merito dello sport ovviamente, per la pallacanestro, ho conosciuto tantissimi ragazzi americani, qui abbiamo fatto amicizia e notavo queste sfumature culturalmente nella società, anche per l'approccio dell'intrattenimento, l'approccio letterario, cioè non so, Mary Taylor Moore faceva morire dal ridere, tradotto nell'americano e nella metrica americana, non so se conoscete la sitcom, a me piaceva tantissimo, se vista attraverso i loro occhi a maggior ragione mi risultava di gradimento veramente più intenso, visto con i miei occhi lo trovavo un prodotto bellissimo, una delle sitcom più belle che abbia mai visto, però come differenza sì certo c'è da sorridere a ridere, è un pochettino diverso. Faccio un passo indietro e torno in Italia. Fantozzi, la saga di Fantozzi in Italia, capolavoro assoluto, ha cambiato il linguaggio, ha portato veramente la critica, ne parlo costantemente. Oltre frontiera non ha avuto lo stesso successo, assolutamente. And I know that you do. Ecco qua Silvia, visto ho citato Polesine, Fantozzi, oggi è veramente anche una puntata che... No, ti dicevo, Fantozzi ha avuto un grandissimo successo in Russia, per esempio. In ogni caso, il discorso che tu facevi con gli americani lo troviamo molto bene espresso in letteratura. Certo. Quando leggi un racconto come Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde, quello è la rappresentazione migliore della, e molto, quello sì molto comico, della differenza tra gli inglesi e gli americani. Certo. Gli americani sono quelli che Mark Twain, americano lui stesso, chiamava gli innocenti, cioè così un po' ingenuotti. I semplici. I semplici, quando lui scrive questo libro sui turisti americani lo intitola The Innocents Abroad, gli innocenti all'estero, che si fanno un po' prendere per il naso, che si stupiscono di tutto, che si accontentano, la cui comicità poi è anche abbastanza greve e abbastanza fatta di cose immediate, primitive. Immediate. Sì. Tu pensa al successo che ebbero in anni abbastanza recenti certi film americani, che anche certi film con Jim Carrey, che adesso non mi ricordo. Sì, è vero, The Mask, pensa a The Mask, non è certo un capolavoro, però... No, pensa a Scemo e più Scemo. Pensa a un attore come Chevy Chase, che per me non è certo... Infatti, quel tipo, ma c'era un film che aveva tutti i passi per Mary. No, che io non sono mai riuscito a vedere fino in fondo, e che era la quintessenza della comicità che piaceva agli americani. Quindi fanno diventare Fantozzi contro tutti il capolavoro assoluto di tutti. Più che altro lo fanno diventare il massimo dell'intelligenza e della finezza intellettuale. Certo. Però adesso questo ci porta molto fuori pista, perché chiaramente noi non... il libro che stiamo presentando non ha niente a che vedere abbiamo divagato, con questo, è vero, tipo, brava, di comicità. Grazie prof, perché poi quando si parla io faccio in un attimo uscire dai binari. È un libro che io consiglio, sono ben contento che tu lo porti in palio. Vuoi che io, siamo a ridosso della pubblicità, un filo in ritardo, ma sono contento perché vuol dire che stai meglio. E per quanto riguarda invece la playlist, il brano, vuoi, hai detto dobbiamo portare questo brano perché è attinente al quiz. Sì. Allora, lo lancio o aspetto il quiz? No, lancialo pure. Okay. Poi dopo la pubblicità facciamo il quiz. Ah, resti in diretta. Oppure, anche per dopo la pubblicità? No, niente. Se no lo lanci e poi, se non perdiamo troppo tempo, intendo. No, guarda, se non andiamo troppo oltre. Se intanto tu lo vuoi presentare, fare il quiz, poi ci salutiamo, così non ti intrattengo più di tanto, insomma, ecco, dimmi tu. Va bene, allora volevo dire, ascoltate con attenzione questo brano, che è già partito. Questo brano che mi ha messo Willy è nella versione di Ivano Fossati. È un live di Ivano Fossati, e io desidero sapere chi l'ha lanciato, cioè ha avuto un enorme successo nella interpretazione di un altro cantautore che l'ha scritto insieme a Fossati. È un brano di Fossati che è scritto a quattro mani. Sì? Voglio sapere chi è il cantautore che l'ha che gli ha dato fama questo brano, che l'ha lanciato, e in quale album l'ha slanciato. Il titolo dell'album in cui si trova, titolo dell'album e dell'autore che gli ha dato successo. Diamo il titolo del brano, lo possiamo dire? No, ok, scusa, visto sono stato bravo, mi sono saputo trattenere. Nome dell'album e nome del coautore di questo album insieme a Ivano Fossati, per avere La morte d'Arban, edizione Fazzi, sì. JF Powers. Okay. Non dell'album in cui si trova la versione di Fossati, ma dell'album in cui si trova la versione famosa. Precisiamo ancora. Bene, okay. Bene. Al 333 180 9494. Io Silvia ti ringrazio tantissimo. dopo la pubblicità avremo il responso a questo quiz e adesso facciamo ascoltare il brano, sennò... se no non riesco a rispondere. Ok, pronta guarigione, ti aspettiamo nuovamente in diretta qua negli studi di Via Zanardi. Saluta tantissimo Stefano e poi certamente il prossimo mercoledì per un nuovo Voltiamo Pagina. Grazie Silvia, ciao. Ciao. Il suo passaggio di gelosie devastatrice di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda signore questi servi disobbedienti alle leggi del branco, non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna gli aiuti come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere. Grande gusto, eh? Da dove arriva questo brano? Beh, questo è un Rare Groove, A Trip, il titolo. Arriva da un compositore degli anni 70, fine anni 60 per meglio dire, Yordan Kapitanov, dalla Bulgaria. Tempo fa The Romanian Jazz e poi ieri in playlist alcuni brani dalla Polonia. Siamo oltre la cortina di ferro e si ascoltava buona musica a quanto pare. Questo brano dalla Bulgaria, A Trip, Yordan Kapitanov. Thank you. Risposta esatta. Allora, il brano di Fossati, quello che ha congedato la prima parte, anche la nostra Silvia, che ringrazio immensamente. Anime Salve, scusate. L'ultimo disco di De André, che è anche coautore con il brano che abbiamo proposto, Smisurata Preghiera. Il brano che è andato prima della pubblicità e che è stato motivo di quiz. Bravissimo Andrea, che ha scritto nell'immediato, è arrivato anche con risposta esatta Dino. Beh, sono i nostri Magic Johnson and Larry Bird della NBA, del Voltiamo Pagina. Gianluca, no, non è esatta la tua risposta, ma ti ringraziamo tantissimo per aver partecipato. Mi raccomando, chi non ha avuto la possibilità per quanto riguarda l'edizione presentata di JF Powers, già arrivata in frequenza nel Voltiamo Pagina qualche settimana fa, con Morte d'Arban, edizione Fazzi, che resti in ascolto perché abbiamo in pochi minuti una presentazione e un altro quiz, eh? Edizioni Fandango, perché vi ho parlato di jazz dalla Bulgaria, perché in questo lavoro di un autore classe 1968, sceneggiatore oltre che scrittore, nato a Torino dove vive e lavora, ha scritto, come vi ho detto, alcune sceneggiature cinematografiche, tra cui quelle dei Nostri anni nel 2000 e Ruggine nel 2011. Sono stati presentati al Festival di Cannes e a quello di Venezia, e per Fandango Libri sono usciti, per quanto riguarda la parte di narrazione, Il sentimento del ferro nel 2019 e L'arte di uccidere un uomo nel 2021, scusate. Ora esce Un certo bisogno di socialismo. Perché ho citato? Già dal titolo ne sono rimasto subito affascinato, ovviamente, anche se, come ben sapete, per quanto riguarda determinati aspetti, come spesso dico, hanno buttato un po' via il bambino insieme all'acqua sporca, con la caduta del muro, e di questo ne resto fermamente convinto. Lui risponde a nome di Jaime Alonge. Le edizioni è per Fandango e racconta in maniera molto estesa e anche con una scrittura allo stesso modo distesa, perdonate questa sonorità simile negli aggettivi che ho dato a questo lavoro, ma tant'è. La copertina è molto bella, tra l'altro, dove questa donna guarda da parte a parte attraverso il muro. Il muro che viene eretto nel 1961 per evitare un'emorragia di cittadini dalla parte orientale a quella occidentale. Allo stesso modo viene eretto in tempi veramente brevi, in 2 giorni, Ci sono stati motivi di critica, immancabili, certamente, come ho già detto in precedenza. Il romanzo si svolge dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con un racconto che vede diversi personaggi che si incontrano in questa città. Vi è tanta parte dedicata, con un certo bisogno di socialismo, a quella che è la ostalgia, che è quell'aspetto di ricordo per i tempi all'interno del Patto di Varsavia. Vi è anche ovviamente la critica. È un lavoro che si legge in maniera molto agile, che vede dei personaggi, alcuni molto romantici, altri molto idealisti, con panorama eterogeneo di interpretazione. Se avete visto La vita degli altri, delle attinenze, con un aspetto cinematografico, c'è anche in Un certo bisogno di socialismo. E con queste poche parole vi posso dare presentazione del lavoro che metto io in palio. Un premio che può essere ritirato, come del resto anche Morte d'Urban, alla libreria Ubic di Via Nerio 27 a Bologna. Thank you. poi il portare questo muro, insomma, ha fatto bene un po' a tutti, dicono anche nella quarta di copertina, tranne che ai berlinesi. In effetti alcuni personaggi sono veramente in situazione di gravissima difficoltà. Si parte con, ecco, questo è un aspetto dove si è concesso un pochettino di narrazione per partire, con i funerali di Hitler. Durante l'arrivo dei sovietici a Berlino c'è questa bambina, che poi diventerà donna, che vede i funerali del Führer. Ovviamente sono in gran segreto, dice: ho visto anche Goebbels, ho visto tanta gente, e poi hanno dato fuoco a questa pira. Secondo me in quel lenzuolo era avvolto il dittatore. E da lì si parte, come vi ho detto, con un certo bisogno di socialismo. Jaime Allonge da questa partenza ha una misteriosa ma coprotagonista, ideatrice di videogame, quindi arriviamo in periodo più a venire per le epoche. Beh, Le vite degli altri, se avete visto questo film molto bello, la scrittura è molto cinematografica di Jaime Allonge, e in questo lavoro indubbiamente lascia trasparire questa caratteristica. Allora il quiz al 333-180-9494 è seguente. Ministero della Sicurezza della Germania Est. Vi era una sigla, come per l'Unione Sovietica il KGB, il KGB. Per la Germania Est vi era un'altra sigla. Se mi scrivete il nome di questa polizia speciale per il Ministero della Sicurezza della Germania Repubblica Popolare, cioè la DDR, per voi un certo bisogno di socialismo di Jaime Allonge. Qual era la sigla di questa istituzione? Ebbene sì, Riccardo, grazie, era la Stasi. E su questo io devo salutarvi, però ben contento di aver lasciato spazio a Silvia, in quanto era un libro presentato, si può dire, a quattro mani. Riccardo, puoi ritirare il libro in libreria Ubic. Anche Luigi risponde perfettamente al quiz, grazie Luigi. Arriva anche un altro messaggio, non è firmato. Ah, Dario, grazie Dario, una buona giornata a tutte e a tutti voi, ringraziandovi per l'attenzione. I nostri vincitori Andrea e Riccardo potranno ritirare da domani pomeriggio in libreria Ubic i lavori che abbiamo presentato. L'appuntamento è a mercoledì prossimo. Ora devo salutare, dare appuntamento a domani e portarvi in mostra sui 103.1. Parleremo di concetti Pozzati. La rubrica Regola d'arte vi attende, il breakfast inizia alle ore 7. Grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio a tutte e a tutti voi dal vostro William Piana. Ciao!